terzo anello, ad alta voce, la montagna incantata di Thomas Mann. Nei giorni successivi compirono 7 mesi da che il giovane Hans Castorp soggiornava lassù, mentre suo cugino Joachim, che ne aveva 5 sul gobbo quando quello era arrivato, ora ne annoverava 12, dunque un annetto tondo tondo in senso cosmico, perché da quando la piccola forzuta locomotiva lo aveva scaricato, la Terra aveva compiuto il suo giro intorno al Sole ed era ritornata al punto di allora. Era tempo di carnevale. Il martedì grasso era alle porte e Castorp si informò presso chi era là da un anno per sapere come si sarebbe presentato. «Magnifico!» rispose Settembrini quando i cugini lo incontrarono durante i 4 passi del mattino. «Meraviglioso!» rispose. «Un'allegria come al Prater! Vedrai, ingegnere! Poi siamo fra i danzanti gli splendidi galanti!» disse. E continuò a sparlare, accompagnando la reboante maldicenza con efficaci movimenti delle braccia, della testa e delle spalle. «Che volete? Anche nelle Maison de Santé si organizzano balli, talvolta, a quanto ho letto, per i pazzi e i deficienti. Perché non lo si dovrebbe fare qui?» Era vero. Già alla prima colazione del martedì grasso, che arrivò in un baleno, prima che lo si fosse scorto bene da lontano, già al mattino si udirono nella sala da pranzo ogni sorta di suoni gracchianti e strombettanti di burleschi strumenti a fiato. A mezzogiorno si videro già partire stelle filanti dalla tavola di Ganser, di Rasmussen e della Klefeld, e parecchie persone, per esempio Marusia, la ragazza dagli occhi tondi, portavano un copricapo di carta. Ma la sera, nella sala e nei salotti di ritrovo, si svolse una festa, durante la quale anche la Chauchat si era messa in testa un berretto carnevalesco, che non era nemmeno di quelli acquistati, ma di quelli che si fanno ai bambini, ripiegando un foglio bianco a tricorno, e messo di traverso, le stava benissimo. L'abito di seta scura e bruno dorata lasciava liberi i piedi. La gonna era lavorata a rigonfi. Qui non diciamo più nulla delle braccia. Erano nude fino alle spalle. «Osservala bene», udì Castorp. Era la voce di Settembrini che pareva venisse da lontano, mentre la guardava avviarsi verso la porta vetrata e uscire dalla sala. «Lilith è quella!» «Chi?» domandò Castorp. Il letterato replicò tutto contento. «La prima moglie di Adamo! Sta in guardia!» Oltre a loro due, non c'era che Blumenkohl alla loro tavola, al suo posto lontano. Gli altri commensali, anche Joachim, si erano trasferiti nei salotti. Castorp osservò. «Oggi sei imbottito di versi e di poesia. Che Lilli sarebbe codesta? Che fu ammogliato 2 volte Adamo? Non ne avevo un'idea. La leggenda ebraica lo afferma. Quella Lilith è diventata uno spettro notturno, un pericolo per i giovani, specialmente a causa dei bei capelli. Al diavolo, uno spettro notturno con bei capelli, roba che tu non puoi soffrire, vero? Perciò arrivi e accendi, dirò così, tutte le lampade per istradare i giovani sulla retta via. Non fai così?» disse Castorp fantasticando. Della miscela di vini ne aveva bevuta parecchio. «Senta, ingegnere, la smetta!» ordinò Settembrini aggrottando le ciglia. «Adoperi per favore la terza persona femminile come si usa in Occidente fra persone civili. Il tentativo che fa non si attaglia al suo tipo.» «Ma perché? È carnevale! E tutti sono d'accordo questa sera!» «Già, per soddisfare un prurito incivile. Il tu fra estranei, cioè persone che a rigore devono darsi del lei, è una grossolanità ripugnante, un ritorno allo stato primitivo, un gioco sciatto che aborro, perché in sostanza è volto contro la civiltà e l'umanità evoluta, svergognato e insolente. Io non le ho dato del tu, non si illuda. Ho citato soltanto un passo del capolavoro della sua letteratura nazionale. Ho parlato quindi poeticamente.» Anch'io parlo per così dire poeticamente, perché il momento mi sembra adatto. Per questo parlo. Non dirò che mi riesca facile e spontaneo darti del tu. Anzi, Mi costa un certo sforzo. Per farlo devo darmi uno scrollone. Ma questo scrollone me lo do volentieri. Me lo do con gioia. E di cuore. Di cuore? Sì, di cuore. Mi puoi credere. Il consigliere, annunciò la signorina, serviva di persona nella saletta di musica un ponche di carnevale, offerto dall'amministrazione, e invitò i signori a seguirla subito se desideravano agguantare ancora un bicchierino. Andarono quindi di là. Le porte erano aperte, c'erano ospiti anche nell'atrio. Un crocchio intorno alla tavola rotonda sulla quale c'era la zuppiera stava guardando il consigliere che dava l'avvio a un gioco di società. In piedi disegnava occhi chiusi. Chino sulla tavola, ma con la testa reclinata, affinché tutti vedessero che teneva chiusi gli occhi, disegnava una figura alla cieca, sul rovescio di un biglietto di visita, con la matita. La sua manona, senza il soccorso degli occhi, tracciava il contorno di un porcellino, visto di profilo. Un po' alla buona, più stilizzato che rispondente al vero, ma si capiva benissimo che, ad onta delle difficili condizioni in cui veniva eseguita, era la forma fondamentale di un porcellino. Compiuta l'opera, si udì un «ah» di stupore, e presi dall'ambizione tutti vollero provarsi a imitare il maestro. Pochissimi però avrebbero saputo disegnare un porcellino a occhi aperti, figurarsi tenendoli chiusi. Quali aborti ne uscirono! Gli spettatori si sganasciavano dalle risa. Altri ne arrivarono. I giocatori alle tavole del bridge, accortisi, si alzarono con in mano le carte disposte a ventaglio e vennero a curiosare. I presenti tenevano d'occhio le palpebre di chi tentava la prova, affinché non spiasse, poiché c'era qualcuno che, conscio della propria incapacità, vi era facilmente indotto, e ridacchiavano e sbuffavano, mentre quello commetteva i suoi ciechi errori, finché, vedendolo spalancare gli occhi e guardare il suo assurdo pasticcio, ridevano a crepapelle. Castorp nella calca stette a guardare, al di sopra della spalla di Joachim, uno dei disegnatori. Gli teneva un gomito sulla spalla, si stringeva il mento con tutte le cinque dita di una mano e puntava l'altra su un fianco e parlava e rideva. Anche lui volle disegnare. Chiese a gran voce e ottenne una matita, un cosino ormai brevissimo che poteva appena tenere fra il pollice e l'indice. Brontolando contro quel mozzicone, il viso cieco rivolto al soffitto, sacramentò e maledisse l'inservibile matita, mentre con mano veloce buttava un'orrenda scempiaggine sul cartoncino, sbagliando infine persino questo e passando a disegnare sulla tovaglia. «Non vale!» esclamò in mezzo alle meritate risa. «Come si fa con un simile? All'inferno!» e gettò il mozzicone incriminato nella zuppiera del ponce. «Chi ha una matita come si deve? Chi me la presta? Devo rifare il disegno! Una matita! Una matita! Chi ce l'ha?» gridò a destra e a sinistra, l'avambraccio sinistro ancora posato sulla tavola, agitando la destra nell'aria. Nessuno gliela diede. Allora si volse ed entrò nel salotto continuando a chiedere. Andò di filato verso Claudia Chauchat, che, come egli sapeva, vi stava non lontano dalla portiera, e di lì aveva osservato sorridendo il movimento intorno alla tavola del ponce. Alle sue spalle udì armoniose parole in italiano. «E ingegnere, aspetti! Che cosa fa? Ingegnere, un po' di buon senso, via! Ma è matto questo ragazzo!» Questa voce però fu sopraffatta dalla sua, e si vide Settembrini abbandonare la compagnia, tenendo una mano sulla testa col braccio sollevato, gesto comune a casa sua, del quale non sarebbe facile concentrare il significato in una parola, e accompagnando il gesto con un prolungato Castorp invece era nel cortile ammattonato. Fissava da vicino gli occhi epicantici, sopra gli zigomi sporgenti, e diceva: «Ce l'hai tu, una matita?» rispose a quel tu, la malata dalle braccia scoperte. Sì, forse. E in ogni caso aveva nel sorriso e nella voce un po' di quell'agitazione che prende quando, dopo una lunga muta relazione, ci si sente rivolgere la parola per la prima volta. Un'agitazione astuta che in quell'istante condensa, senza paure, tutto quanto è preceduto. Sei molto ambizioso, sei in grande fervore, continuò canzonando, con una strana pronuncia esotica, specie della R e delle O chiuse, e con una voce un po' velata, gradevolmente rauca. E frugò nella borsetta di pelle, vi guardò cercando, e sotto un fazzoletto che venne fuori per primo, trasse una matitina d'argento, sottile, fragile, un oggettino di minuteria, quasi inservibile a un uso serio. «Voilà!» esclamò tenendo l'oggettino per la punta sotto gli occhi di lui e facendolo dondolare leggermente. «Hai messo un abito nuovo», disse lui per poterla osservare, e si sentì rispondere. «Nuovo? Conosci bene il mio guardaroba? Non ho forse ragione?» «Sì, certo. Me lo sono fatto fare recentemente, qui da Luca Ceccadorf. Lavora molto per le signore di quassù. Ti piace?» «Moltissimo», rispose lui abbracciandola ancora con lo sguardo e abbassando poi gli occhi. «Vuoi ballare?» soggiunse. «Tu vorresti?» domandò lei per contro sorridendo e alzando le ciglia. Ed egli rispose. «Lo farei se tu avessi voglia.» «Sei meno bravo di quanto pensassi», disse lei. E vedendolo ridere con disprezzo aggiunse. «Tuo cugino se n'è già andato.» «Sì, è mio cugino», confermò senza che ce ne fosse bisogno. «Ho notato anch'io dianzi che non c'era. Sarà andato a coricarsi.» «C'est un jeune homme, très étroit, très honnête, très allemand.» «Étroit, honnête?» ripeté lui. «Capisco il francese meglio di quanto non lo parli. Vuoi dire che è un pedante? Pensi che noi tedeschi siamo pedanti? Nous autres allemands. Nous cousins de votre cousin. Mais c'est vrai. Voi siete un po' bourgeois. Vous aimez l'ordre mieux que la liberté. Tous les robes laissées. Aimez. Qu'est-ce que c'est? Ça manque de définition, ces mots-là. L'uno ce l'ha. L'altro lo ama. Come non disono proverbialmente», affermò Castorp. «E ora dimmi, non vuoi danzare?» «Ma no, è puerile. En cachette de médecin. Aussitôt que Berens reviendra, tout le monde va se précipiter sur les chaises. Ce sera fort ridicule.» «Tanto rispetto gli porti. A chi?» «A Berens.» «Mi va donc avec ton Berens. Ed è troppo stretto qui per ballare. E puis, sur le tapis. Stiamo invece a vedere le danze.» «Sì, stiamo a vedere», approvò lui. E guardò accanto a lei col volto pallido, con gli occhi azzurri e assorti di suo nonno, il saltellio dei pazienti mascherati, lì nel salotto, e di là, nella sala di scrittura. Thank you. Parlavano a voce bassa, accompagnati dalle note del pianoforte. Stiamo qui seduti e guardiamo come in sogno. Devi sapere che vederci qui seduti è un sogno per me. Poète, disse lei, bourgeois, humaniste e poète. Voilà l'allemand complet, comme il faut. Pourquoi des paroles, disse lui, pourquoi parler, parler, discourir. C'est une chose bien républicaine, je le concède, mais je doute que ce soit poétique au même degré. Se suffit parler, continuò Castorp, pauvre affaire, dans l'éternité, on ne parle point. Dans l'éternité, tu sais, on fait comme en désignant un petit cochon, on penche la tête en arrière et on ferme les yeux. Pas mal ça. Tu es chez toi dans l'éternité. Sans aucun doute, tu la connais au fond. Il faut avouer que tu es un petit rêveur, assez curieux. Et puis, osservò Castorp, se je t'avais parlé plus tôt, il m'aurait fallu te dire vous. Ah bien, est-ce que tu as l'intention de me tutoyer pour toujours? Mais oui. Je t'ai tutoyé de tout temps. Je te tutoyerai éternellement. C'est un peu fort, par exemple. En tout cas, tu n'auras pas trop longtemps l'occasion de me dire tu. Je vais partir. Ci volle un po' di tempo perché la notizia gli giungesse alla coscienza. Poi, guardandosi intorno stravolto, si riscosse, come chi è svegliato dal sonno. La loro conversazione si era svolta lentamente, perché Castorp parlava francese con fatica e titubanza. Il pianoforte, che a un tratto era ammutolito, riprese a suonare, questa volta per opera del vannaimese, che era venuto a dare il cambio al giovane slavo e aveva messo la musica sul leggio. La signorina Engelhardt, seduta accanto a lui, gli voltava le pagine. Il numero dei danzanti si era ridotto. Parecchi ospiti dovevano aver scelto la posizione orizzontale. Davanti a loro non era seduto più nessuno. Nella sala di lettura si giocava a carte. «Come hai detto?» domandò Castorp, attonito. «Parto», rispose lei sorridendo, apparentemente meravigliata della sua costernazione. «Impossibile», disse lui. «È uno scherzo. Niente affatto. Dico proprio sul serio. Parto». «Quando?» «Domani. Après dîner». Dentro di lui avvenne un grande crollo. Domandò: «E dove vai?» «Molto lontano». Thank you.